Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a quest'altro appuntamento del Fumetto Sinistro, un mondo dentro al balloon, che torna su un argomento già altre volte trattato ma che merita un'attenzione perché è ricco di spunti di riflessione. Parliamo dell'associazione dei pionieri d'Italia, questi circoli territoriali che il giornaletto di Rodari si era dato per non solo avere una capillare diffusione nel territorio ma anche per in qualche modo interagire quei ragazzi anche sotto un profilo formativo di attività pratiche, e lo facciamo con due testimonianze di due realtà diverse dell'Associazione Pionieri d'Italia. Una è quella di Stefano Borrelli di Roma, dove l'associazione sicuramente era meno radicata che non nel nord Italia, e l'altra invece con Pina Martelli bolognese, Bologna, con Reggie Miller, una delle roccaforti del Pioniere. Sentiamo queste due interviste perché sono interessanti per vedere anche come un bambino vede queste realtà dei circoli, quando si andava a campeggio, quando si discuteva dell'avvenire dell'Associazione Pionieri. Insomma, questi bambini protagonisti che erano un po' l'obiettivo che Rodari e la Dina Rinaldi nel costruire queste realtà territoriali. Stefano Borrelli, tu sei stato un pioniere a Roma e in particolare nel quartiere Nomentano. Che tipo di esperienza hai fatto in quel periodo, che erano gli anni 60, immagino? Sì, esatto, erano gli anni 60, sì, perché io sono del 49, quindi avevo 11 anni. Avevamo fondato nella sezione Nomentano del PC il circolo dei pionieri, di cui poi io sono stato responsabile del circolo, dove all'interno appunto dell'organizzazione poi a livello nazionale che aveva allora il partito. Quindi tu a 11 anni eri responsabile di un gruppo di bambini? Sì, sì, dei pionieri, sì, esatto. E poi c'erano, sì, delle figure comunque anche più grandi, più adulte. Sì, esatto, ci incontravamo praticamente noi, sono stato pioniere, vabbè, fino all'età di 14-15 anni, perché poi mi sono iscritto alla Federazione Giovanile Comunista. Ecco, ci incontravamo in sezione sia per guardare la televisione, perché la sezione Nomentana aveva comprato la TV, perché allora nelle case ancora non c'era. Noi a casa nostra la prima TV l'abbiamo comprata nel 60 in occasione delle Olimpiadi a Roma, però prima si andava a vedere la TV chi andava al bar, chi andava chiaramente al circolo parrocchiale, e la sezione aveva comprato la TV, per cui noi andavamo anche in sezione per vedere la televisione. E poi ci incontravamo, ecco, per giocare assieme, per aiutarci a fare delle ricerche specifiche, usando anche il giornale del Pioniere, perché sul Pioniere c'erano articoli appunto sull'avventurosa storia dell'uomo, quindi chiaramente quando dovevamo fare ricerche di storia usavamo anche leggere il Pioniere, il giornalino. Quindi faceva anche un po' poi, dopo scuola, diciamo. Esatto. In quanto poi, ecco, si leggeva poi il Pioniere tutti quanti assieme, sia chiaramente i fumetti che c'erano sul Pioniere, infatti mi ricordo Ercole, Chiodino, Atomino, sì, questi fumetti particolari diversi da quelli appunto della Walt Disney. E poi c'erano articoli appunto in cui si parlava del fascismo, della resistenza, e quindi questo ci serviva anche chiaramente. È da lì che abbiamo cominciato a conoscere queste problematiche sulla resistenza, sul fascismo, perché chiaramente a scuola la storia non arrivava a questo periodo, mentre ecco in sezione dal pioniere riuscivamo appunto a sapere queste cose. Senti, voi facevate anche la diffusione del giornale? Sì, facevamo anche la diffusione, andavamo magari dove sapevamo che magari potevano avere delle possibilità di vendita praticamente, anche perché era un giornalino particolare, perché allora in giro c'era il Corriere dei Piccoli, quindi era dominante il Corriere dei Piccoli. Esatto, era dominante, sì. E quindi ecco, per far conoscere questo tipo particolare di giornale appunto dei bambini, dei ragazzi, che poi ecco non era solo di fumetti, ma poi era anche di altre cose. Io mi ricordo anche le pubblicazioni che faceva edite dal Pioniere, mi ricordo ancora sull'atomo di scienze, quindi usavamo anche quelle, io l'ho usate anche successivamente, insomma, che erano proprio veramente fatte bene. Poi ecco, c'è un episodio che voglio qua ricordare, che all'inizio purtroppo degli anni 60 il partito decise purtroppo di sciogliere l'organizzazione per i costi elevati che non erano più sostenibili, e quindi avevano però mantenuto la pubblicazione del Pioniere in formato ovviamente ridotto e come supplemento del quotidiano dell'Unità. A questo proposito, durante un congresso appunto della sezione Noventano, io intervenni nel congresso criticando il fatto che di questa scelta di sciogliere l'organizzazione dei Pionieri, perché oltretutto gli unici punti di ritrovo nelle sezioni erano rappresentati allora in quegli anni dalle parrocchie, che c'erano i Boy Scout, c'erano le organizzazioni giovanili e poi c'erano i Pionieri. Quindi ecco, sciogliere questa organizzazione, che poi organizzava anche i campeggi estivi, insomma, sì, era molto grave. Quindi io feci questo intervento ovviamente di fronte a tutti quanti i compagni, diventando pure rosso, perché è stato il mio primo intervento che feci in sezione. E poi ecco, questo mio intervento fu apprezzato e addirittura fu pure emesso nel documento finale del congresso della sezione. E poi c'è un altro ricordo del mio passato di Pioniere, una lettera che mi scrisse papà in occasione di un suo regalo, in occasione della Befana del 6 gennaio del 60, in cui sulla busta c'era scritto al Pioniere Stefano Borelli, che ancora conservo gelosamente. E fai bene. Ecco, questi sono un po' i miei ricordi, insomma, di quegli anni che sono stati bellissimi. Noi come Pionieri poi andavamo anche insieme con i compagni adulti lì nelle borgate. Allora lì nel quartiere Noventano c'era il fosso di Sant'Agnese. Erano baraccati erano baracche che erano dislocati dove adesso ci sta la tangenziale, sì. vicino alla Niene. Sì, sì. Esatto, e poi anche l'altra borgata che era Vignamangani. Sì, e quindi ecco, andavamo con i compagni così per avvicinare gli altri ragazzi, gli altri bambini, insomma. Una cosa proprio veloce, sì. Mi sono ricordato di quando ero praticamente pioniere e poi successivamente della FGC, dei racconti che ci faceva Domenico Marchioro, che era stato negli anni 60 segretario della sezione Noventano, ed è che lui poi, Domenico Marchioro, era stato processato nel 28 era stato condannato a 17 anni di carcere nel processone, che poi c'era anche Gramsci. A noi del Pionieri, insomma, ci raccontava sia i suoi anni, diciamo, della sua lotta antifascista, sì, ma poi soprattutto delle sue lotte fatte nelle fabbriche tessili quando era giovane, perché lui era nativo di Schio, era nato a Schio in provincia di Vicenza, c'erano le fabbriche tessili e negli anni 20 nelle lotte operaie lui ci raccontava spessissimo a noi pionieri, a noi giovani, i suoi interventi che faceva soprattutto nelle osterie per evitare che gli operai bevessero e quindi non fossero più lucidi, fossero offuscati dal vino e che quindi non potessero chiaramente battagliare, difendere i loro diritti durante le battaglie operaie. Quindi questo è un ricordo che c'ho dei suoi racconti che faceva, capito? Dopo Stefano Borelli, questa voce di un pioniere contestatore di Roma, veniamo un'altra voce, quella di Pina Martelli, che invece militava a Bologna tra i giovani pionieri ed era, diciamo, una quinta colonna della forza giovanile, tant'è che poi questa esperienza è stata estremamente utile perché nella sua vita Pina Martelli è poi continuata la sua militanza, poi non a caso nell'UDI, nell'Unione Donne Italiane. E sentiamo appunto da Pina com'era l'atmosfera della militanza nei pionieri e cosa significava andare nei campeggi del pioniere stesso. Pina Martelli, tu da bambina sei stata una pioniera a Bologna e questa tua esperienza l'hai anche tra l'altro raccontata in un libro che ha poi curato tuo fratello Sergio, e quindi è un libro che si può ancora trovare. Raccontaci un po' di questa esperienza che hai fatto. L'esperienza dei pionieri nasce a Bologna perché io andavo per le case e portavo il pioniere, quindi portavo insieme noi donne il pioniere, andavo in questa famiglia dove c'erano persone adulte e bambini, sì. E portavo il pioniere perché veniva distribuito allora a Bologna casa per casa, quindi mi aspettavano la domenica, io andavo e portavo questo pioniere. Perché tu all'epoca eri iscritta all'Associazione Pionieri Italiani di Bologna. Ero una pioniera, quindi col fatto poi che mio fratello ovviamente aveva una adesso non so che ruolo avesse allora, comunque era responsabile, insieme alla, era un'altra la responsabile che era più grande di lui, e quindi c'era questo, diciamo a Bologna, c'era questo centro di smistamento del pioniere, arrivava a Bologna e poi dopo veniva fascicolato, mandato, era poi allora presso le sezioni del PC, che c'era l'unità, noi donne e il pioniere, e quindi facevo questa distribuzione. In quale quartiere quindi, lo facevi di Bologna? Io abitavo in San Vitale, quindi abitavo in via Rimesse e lo facevo nella zona di via Rimesse, insomma, e quanti, non quanti... avevo una grande zona, no, no, immagino. No, non mi ricordo, però erano abbastanza, insomma, erano, avevo il nome di questi bambini, di queste famiglie dove andavo a consegnare, poi dopo loro me le pagavano e io dopo restituivo quello che era venduto. Avevo venduto, diciamo, questi pionieri, era una cosa anche simpatica, perché poi sei una bambina, vedevo, entravo, anzi ti dirò che ricordo che se delle volte succedeva, specialmente d'inverno, non so, che saltavo una settimana, non andavo per qualche motivo, ah non sei venuta, ma noi ti abbiamo aspettato. Si preoccupavano, era una cosa simpatica, e quindi nasce da lì. Poi durante, diciamo, l'estate, sì, quando non andavo a scuola, la sede dei pionieri a Bologna, diciamo la sede provinciale presumo, era lì in via Altabella, comunque era in centro a Bologna, io andavo e ricordo che aiutavo anche a fare le spedizioni di questi pacchi, perché probabilmente i pionieri venivano anche distribuiti nelle varie sezioni della provincia, hai capito? Arrivavano tutto, sì, a Bologna, poi venivano ridistribuiti, da lì avevo imparato infatti a fare tutti i pacchetti, a rotolare eccetera, insomma mi mettevano sotto a lavorare, anche se ero piccola, ma si lavorava, hai capito? Quindi, ma in questa sede di Altabella era la sede dell'associazione, era sempre una sede del Partito Comunista? Con... No, erano proprio i pionieri, l'associazione dei pionieri, non a Bologna, dove arrivavano da Roma tutti, arrivava il pioniere, stiamo parlando dei pionieri, e poi venivano fatti pacchi e pacchettini e ridistribuiti in tutte le province e l'associazione a Bologna, che casomai poi provvedevano a ridistribuirlo, perché erano tante le copie che venivano vendute, quindi era una distribuzione capillare proprio di questo giornalino che passava appunto attraverso le sezioni del PC, quindi veniva distribuito e venduto. Penso proprio di essere andata quasi sicuramente al primo campeggio che fecero, e ero sempre andata in colonia, perché il comune di Bologna aveva sempre, sai, fatto le colonie dei bambini, sì, c'era addosso, quindi io praticamente stavo via tutto il mese di luglio, di agosto, adesso quello che era, e stavo via un mese al mare, a Miramare, dove c'era la colonia. Poi a un certo punto ti prendevano fino alla quinta elementare, oltre, fino ai 10 anni, insomma, sì, non prendevano, però io ero piccolina, poi avevo finito, perché poi sono nata a fine anno, quindi insomma ci sono andata anche dopo la fine della quinta elementare, insomma ho fatto un anno in più di quello che era, ma comunque dopo, a un certo punto non mi hanno più voluto, perché non avevo più l'età per andare in colonia, e sono cominciata ad andare l'anno successivo al campeggio dei pionieri. Campeggio dei pionieri, che è stata un'esperienza, come dico, ero bambina, per cui io insieme ad altre bambine dell'Emilia Romagna, perché eravamo in una tenda, mi ricordo, in quattro. In che zona era il campeggio? Il primo campeggio era questo campeggio che era praticamente in mezzo al bosco proprio, perché eravamo fuori dal centro abitato, e quindi eravamo in questa zona boschiva dove avevano messo queste tende, era tutto molto molto spartano, tipo sai, c'era un tubo con i buchi come nei militari, sì, per lavarsi, quindi avevano fatto delle grandi fosse per il bagno, dove uno andava e c'erano delle collasse, sì, il buco giù, e poi buttavano giù della calce. Sì. Però questa esperienza è stata formativa per te? È stata molto importante, perché sono ritrovata da bambini da un'esperienza che poteva essere una colonia dove decidevano gli altri, no? Cosa dovevi fare, adesso si mangia, adesso si va a fare il bagno, adesso si fa questo, adesso si fa quello, in una comunità dove invece loro avevano messo al centro i bambini, dove erano i bambini le bambine che decidevano cosa fare e cosa non fare. Quindi loro al mattino, e intanto mi ricordo che eravamo svegliati da questo disco, c'era questo megafono che mettevano su un disco, e quindi era, diciamo, la sveglia che veniva fatta così. E poi dopo ci si riuniva, perché avevano fatto i vari gruppi, quindi c'erano le squadre, avevano dato tutti i nomi, squadra, adesso dico A, B, degli scoiattoli, dei corsi, ognuno poi aveva deciso questa squadra, e ci si metteva e si faceva l'alza bandiera. Era un po' militaresco, adesso, ripensandoci adesso somigliava un po' ai Boy Scout, sì. E in quell'occasione, dopo fatto l'alza bandiera, si faceva il programma, veniva fatto il programma della giornata, chi faceva cosa si faceva, qual era, non so, la squadra che per esempio faceva il bollettino meteorologico, quello lo ricordo bene, avevano fatto una piccola torre di legno dove in alto c'erano degli apparecchi tipo la temperatura, il vento, delle cose così, la squadra che era quel giorno saliva poi dopo a prendere i dati, no? Oppure c'era quella che era detta per esempio ad apparecchiare, noi dovevamo farci il nostro letto, quello lì veniva fatto il letto, che erano poi delle brandine, eravamo in tenda, veniva fatto il letto, e poi invece avevamo la cucina, c'erano le cuoche che cucinavano e che pulivano, lavavano i piatti. Tra l'altro sei ancora una dirigente dell'UDI, questa esperienza ti è servita anche per questo? Come erano stabiliti? C'erano i ruoli maschio e femmina? Sì, non c'erano i maschi, ecco. Erano solo femmine, facevano i campeggi divisi. C'è stato, non so, metà d'agosto andavano i maschi, a luglio le femmine, quindi no, eravamo, non c'era neanche... Però facevate tutto praticamente? No, noi facevamo tutto, è stato formativo proprio perché in queste... tre settimane, insomma, che stavamo nel campeggio, sì. E venivano, c'erano questi che secondo me erano molto molto bravi gli educatori, che molti erano della scuola montessoriana, venivano un po' da tutta Italia, e quindi poi mettevano in atto teatro, facevano teatro, canti, ricordo che ci insegnavano a fare i burattini, quindi sia dalla parte manuale che, non so, farle giornalista, io facevo con un gruppo, mi sono fatto un'intervista, andavano a servizare i parrocchi, c'era tutta un'attività culturale ricreativa che veniva organizzata, ognuno sceglieva anche a seconda, mi piacerebbe fare il teatro, però per esempio facevamo alla sera queste commedie alle quali invitavamo anche, diciamo, quelli del paese che venivano, ma insomma, sì, ci vedevano un po' male, e cominciavamo a scrivere dal testo che veniva poi recitato alla recitazione, facevamo intorno a questi fuochi, era una cosa stupenda, quindi alla notte si facevano i falò e poi intorno a questi falò facevamo i canti, le recite, insomma, e ci si divertiva in questo modo, quindi direi che è stato proprio formativa, perché intanto stavi in mezzo agli altri e poi ti dicevano: tu non sei una bambina, ma puoi fare ogni cosa, nel senso che puoi scrivere, puoi fare un articolo, puoi disegnare, puoi recitare, capito? Puoi andare a vedere come sono le meteorologiche, stimolavano a fare un sacco di cose, e devo dire che questi educatori erano anche molto bravi, ecco, perché davanti a ogni nostra richiesta erano poi in grado di darti delle risposte. E poi dopo facevamo anche lo sport, corsa, mi ricordo facevamo la marcia lunga, la marcia notturna, insegnavano un pochettino l'orientamento, adesso certo. Dopo è diventato di moda. La differenza tra come tu vivevi la scuola, tipo il tipo di clima che c'era allora nelle elementari, nelle medie, stiamo parlando dell'inizio degli anni 50. Quei 6 anni, io vivevo in centro, per me non è stata una cosa traumatica, nel senso che già io vivevo un'esperienza particolare perché abitavo nel centro storico e andai all'elementare, adesso ti parlo dell'elementare, in una scuola che avevano appena ristrutturato perché prima c'erano stati gli alluvionati del Po, comunque avevano ristrutturato questa scuola in maniera nuova, eccetera, quindi col banchi singoli, eccetera, insomma c'era un'attività ricreativa per chi rimaneva di pomeriggio. Quindi c'era già una scuola innovativa, diciamo, c'era già attenzione. Una scuola, dove ecco. Era, però c'era l'attenzione, anche se anche allora già era molto evidente la differenza di classe. Io bambina la sentivo moltissimo, perché nel centro storico avevamo delle riccone che arrivavano con l'autista in livrea, che dico, ricchissime, e poi c'erano le povere, poverissime, quindi avevamo una dicotomia nella stessa classe, dove i ricchi e i poveri sì, che noi bambini non ce ne accorgevamo, ma ce ne accorgevamo attraverso la maestra. Adesso qua esco dai pionieri, ce ne accorgevamo attraverso la maestra che faceva differenza proprio, sì, sì, sì. Tu lo vedevi, ah sì, cara, quella la ricchissima, oppure quella che era figlia, non so, del negoziante di formaggi di Via Rizzoli, che mi ricordo lei era grande e grossa, che io dicevo, mamma mia quanti formaggi che mangia, quanti prosciutti, va! E noi eravamo magre, e tutte secchine, secchine. Vabbè, questo è un altro. Quindi un po' di differenza effettivamente poi l'hai sentita invece tra, no, tra la scuola e il pioniere, perché nel pioniere poi certo. Nei campeggi. E poi, no, però ti dico, no, un pochettino, adesso, comunque adesso esulo, ma un po'. E questo mi ha un po', l'ho sentita anche lì, perché lì c'erano le figlie di Sereni, di Paiette, eccetera. Quindi sì. C'erano, alcune avevano una tesi, bambine, non le bambine, perché le bambine erano bambine, si andava tutti d'accordo, si rideva, eccetera. Ma quando, non so, arrivavano i genitori, non so, a trovare la domenica, mi ricordo ancora la figlia di Sereni, che lui aveva la cinepresa, pensa alla cinepresa allora, diciamo, ma la cinepresa, hai capito? Sì, io, sì. Capivi la differenza, no? Sì. Perché io però come bimba, cioè, non è che sei sciocca, quindi capisci, però diciamo poi tutte cose, dice questo è il mondo, ma non niente di che, però che abbia disturbato più di tanto, lo ricordo, ma insomma è così, insomma era così, insomma c'erano quelle, non so, c'era, mi ricordo, i nipoti della Montessori, insomma li vedevi un po', c'erano, non so, degli educatori, mi ricordo, di Venezia, che erano con la donna, loro erano marito e moglie, avevano una bimba piccola, avevano con loro la babysitter. Sì, me, sì, sai, sì. La bimba. Però erano poi persone che con noi, anzi, erano bravissime, disponibilissime, certo. No, su questo. Ma è stata un'esperienza proprio molto positiva, perché cercavano di, quello mi era piaciuto tanto. E anche le amicizie, pensa a te che adesso mi sono riletta le lettere che mi hanno scritto le bimbe, alla bimba Giuseppina Martelli, che aveva fatto amicizia con bimbe di Milano e di altre città, e che abbiamo negli anni poi continuato a scrivere corrispondenze, hai capito? E anche con alcuni di Bologna, perché sono lettere, guarda, di una simpatia proprio di, che sembra che vogliamo cambiare il mondo, perché adesso andrò, farò questa sessione, faremo questa cosa, sono una cosa simpatica, molto, dico, ma pensa a te, quindi ti davano, ti mettevano nella situazione di pensare di poter fare qualcosa, di poter essere una piedina, una persona che può cambiare il mondo, le cose, certo, ma cambiare le cose. Nell'inverno 50-52, alluvione su tutti i giornali, in poledine in tutti e di più, il po' tra ripaggio acqua il po' in piena. E questo è il ricordo di Pina Martelli di come da bambina viveva le associazioni del pionieri, i suoi campeggi, le sue attività e questa voglia di essere qualcuno, di partecipare, di poter cambiare il mondo. E infatti su questo, dal pioniere, nella pagina La Repubblica dei Ragazzi, poi partivano molte campagne di solidarietà delle staffette dei pionieri. Ne ricordiamo per esempio due, quella che portò per l'appunto aiuti, viveri agli alluvionati del Polesi, una sorta di grande antefatto, poi degli angeli del fango di Firenze, dei vari aiuti, i terremoti a venire nel nostro paese, e anche aiuti internazionalisti come quello di portare latte e vestiti ai bambini della Corea del Nord aggrediti dagli Stati Uniti d'America. Incrociando lo scontro est-ovest con la solidarietà, ecco che il risultante è il pioniere, la sua associazione. Per oggi è tutto, risentirci, ciao. Adesso che acqua e acqua per dolore, e mio viggio anna la stazione, pagate più e mo col mondo boia, e la speranza le vizierà le giù, e quella gente spera gaminga veia. Campo profughi di greco, una scuola,